Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo dei paesi del Golfo, 17 nazioni, 450 milioni di abitanti, quinto più grande mercato di esportazione per l'Unione Europea e l'unico con un surplus annuo nella bilancia commerciale a favore dell'Europa. La regione del Golfo sta attraversando in questi anni una trasformazione radicale finanziata col petrolio. La scommessa è saltare direttamente da una economia preindustriale basata in pratica sulla pastorizia a una post-industriale basata sui servizi. A questa visione bisogna aggiungere, come l'ha definita qualcuno, l'attitudine più che futurista, post-futurista dell'elite araba, visione che partorisce grattacieli alti un chilometro e assurde isole a forma di palma, ma anche esperimenti come Masdar, una mini città ultrasostenibile totalmente alimentata dal sole. Comune a tutta l'area è la forte spinta alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico all'avanguardia. Settore dove sono già presenti molte imprese italiane grazie all'esperienza acquisita nell'alta velocità e in progetti come la metro di Brescia. Così troviamo in Pregilo, impegnata nel metro di Riyadh e di Doha, Saipem, che con Meritecnimont sta costruendo la prima tratta della futura rete ferroviaria di Etihad Rail, 1200 km per collegare aree urbane e periferiche degli Emirati Arabi Uniti, e di Italfer invece è il progetto della più cruciale tratta saudita, quella tra Jeddah e Riyadh, mentre il vicino Oman si prepara a dotarsi di altri 2500 chilometri di infrastrutture ferroviarie. Insomma, un mare di opportunità di cui ho parlato con Modar Al-Mekdad, CEO di Gulfex, che è il maggiore trasformatore di alluminio dei paesi arabi, che insieme alle altre industrie dei metalli è fortemente coinvolta in tutte le grandi infrastrutture. Sentiamo per cominciare qual è appunto la sua visione sullo sviluppo dei trasporti nella regione araba. The development of the Arabian area. La regione araba sta assistendo a una fase di crescita della popolazione, del settore industriale e in generale di tutti i servizi sociali connessi. Quindi c'è la necessità di predisporre un adeguato sistema di trasporto che accompagni questa crescita e i governi locali si stanno adoperando affinché siano realizzate strutture indispensabili al collegamento tra città della regione, oltre quindi i confini nazionali. Ci sono molte sfide da affrontare per raggiungere questo risultato, ma è una strada obbligata se vogliamo assecondare e sostenere lo sviluppo della regione. Molti di questi paesi, produttori di petrolio, vogliono trovare percorsi alternativi di crescita. In quest'ottica, il settore dei trasporti diventa una scelta strategica. Mekdad, quali sono oggi i problemi di mobilità con cui devono fare i conti le città del Golfo Persico? In passato i centri urbani erano più piccoli e la gente si spostava prevalentemente in macchina, anche grazie al basso costo del carburante. Oggi i prezzi sono aumentati anche qui e l'incremento della popolazione ha trasformato le città in grandi metropoli. Dubai, per esempio, è ormai una città cosmopolita, dove vivono più di 200 nazionalità diverse, e nel 2020 l'attuale popolazione di 2 milioni di abitanti passerà a circa 3 milioni. Non è possibile pensare di far muovere tutte queste persone con l'automobile privata. Non è sostenibile per l'ambiente e neppure per l'economia. Spostamenti che richiedono ore, magari intrappolati nel traffico, non fanno di certo bene alla crescita economica. Garantire collegamenti sicuri e rapidi tra le città, utilizzando per esempio le ferrovie, diventa quindi indispensabile. D'altro canto, grazie alla crescita economica, sempre più persone hanno la possibilità di acquistare un'auto. E per questo i governi stanno introducendo nuove prescrizioni normative per regolamentare il settore, introdurre vincoli ambientali e orientare la scelta del cittadino verso il trasporto pubblico. Quali opportunità vede per le aziende e le tecnologie italiane in questo contesto? Va ricordato che l'Italia è il secondo paese industrializzato dell'Europa dopo la Germania. E le sue aziende hanno una consolidata esperienza nello sviluppo di progetti e nel trasferimento tecnologico nella regione araba. Questa offerta ha rappresentato in passato storie di successo e il prodotto italiano è riconosciuto e molto apprezzato per la sua qualità e originalità. Ritengo che queste esperienze continueranno e cresceranno in futuro. Mekdad, qual è la difficoltà maggiore dal suo punto di vista nell'interagire con le aziende italiane? Che cosa potrebbe essere diverso? Le aziende italiane dovrebbero essere più aperte verso le opportunità offerte dalla regione araba e avere relazioni più solide e più stabili con le controparti locali. Essere più presenti, e investire sul territorio per concretizzare queste occasioni di business. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.